do il buongiorno a Maria Donnoli Ennio Ruffolo della direzione Pera Spera Festival. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutti, ciao. Allora, nuova edizione appunto di Pera Spera, partire per Aspera, oggi non ne azzecco una neanche degli accenti, direi perfetto. Partiamo da questa locandina meravigliosa, molto particolare, con un detersivo. Vi va di raccontarcela, di spiegarcela un po'? Sì, è molto significativa la locandina, è significativo anche nel processo di costruzione del festival stesso, perché quando con Ennio stavamo ragionando sulla direzione da dare alla programmazione, stavamo casualmente osservando su web, noi solitamente seguiamo e ci incuriosiamo, ci siamo imbattuti in un bozzetto di un illustratore che si chiama Marco Smacchia. Era proprio uno schizzo a matita con questa bottiglia di detersivo e sotto la scritta diversivo, e a quel punto è stata proprio come un'illuminazione. Ci siamo guardati e abbiamo capito che quella sarebbe stata la linea, cioè l'idea di portare qualcosa di diverso in molteplici accezioni, certo, all'interno di Bologna e della città metropolitana. Passerei quindi al programma, qualcosa di diverso. Cosa c'è di diverso in questo programma? Ma quest'anno c'è moltissime cose diverse, se vogliamo. Moltissime cose che hanno a che fare con l'inclusione del pubblico che diventa parte attiva dello spettacolo. O più che spettacolo, sono vere e proprie performance dove lo spettatore diventa attore. E la cosa fondamentale sono i luoghi. I luoghi sono la maggior parte dei luoghi che abbiamo cercato, sono luoghi della periferia e luoghi per nulla usuali. Appunto, dicevamo, i luoghi, sono tanti i luoghi in cui si svolgerà quest'anno il festival, si spazierà un po' in tutta la città. Bologna, la città metropolitana e le periferie di Bologna. Veramente occuperà tutta la città di Bologna. Completamente tutta la città di Bologna. Per quanto riguarda invece sempre la programmazione, dicevamo prima un po' fuori onda che insomma tutti gli eventi ovviamente sono imperdibili, ma magari qualcuno, non so, che aspettate con più entusiasmo? Difficile, questa è una domanda sempre difficile, anche perché tutti i lavori che noi scegliamo sono sempre lavori che hanno una gestazione lunga per creare una relazione sia con gli artisti che col territorio, quindi sono tutti un po' figli nostri in qualche modo. Sì. O nostri cugini. Potrei segnalare tra le cose più diversive una partita di pallone, un vero e proprio torneo tra quattro squadre di calcio, squadre miste, squadre LGBT, squadre di diversissima estrazione con una finalità non competitiva, che faranno un vero e proprio torneo al centro sportivo Pizzoli in via Zanardi, una delle zone periferiche di cui parlava Ennio, e nel frattempo il pubblico seduto in tribuna sarà immerso in un soundscape costruito con le parole e con le musiche del tempo di Pasolini e di Pasolini sul tema del calcio e delle periferie. Quindi un omaggio del collettivo Macellerie Pasolini a Pasolini in un anno rilevante per il poeta e in un luogo per noi ancora più rilevante perché per Aspera crea, come dicevamo, queste connessioni con tutta una serie di realtà che lavorano in diversi territori, e questa è una di quelle più significative. Altro luogo particolare è una cava di cemento, si trova anche questa in via Zanardi, ancora più in fondo, via Zanardi 526, si chiama Concave. La radio, guarda, noi siamo al 369. Quindi... Esatto, voi siete in mezzo, esatto, tra il Pizzoli e Concave. E lì ci sarà l'happening di chiusura del festival il 25 di settembre, si chiama Grand Bois ed è un evento speciale che noi ospitiamo, ma che è parte delle celebrazioni dedicate ai 30 anni della compagnia Fanny Alexander. Siamo entrati in sinergia con questo progetto di Fanny Alexander e Blue Motion in collaborazione con Tempo Reale, ed è un evento veramente speciale perché per la seconda volta in Italia dopo il debutto a Sant'Arcangelo dell'anno scorso, ed è come un carnevale di ritmi di 9 percussionisti che sono installati in luoghi diversi di queste cave di cemento attualmente in funzione, ma con dei macchinari degli anni 70, quindi un posto davvero surreale, sembra di essere quasi su, esatto, su un altro pianeta con dei congegni meccanici vintage. E lì ci sarà questo carnevale di ritmi di percussionisti che nelle loro orecchie ascoltano, senza che il pubblico li senta, dei ritmi voodoo, e su quelli creano delle improvvisazioni, 3 ore di improvvisazione. esposizione che si svolgeranno appunto dalle 17.30 alle 20.30 e che il pubblico può raggiungere nel luogo e nel modo soprattutto che preferisce. Direi veramente tanta diversità in questa programmazione, come appunto ci avevate detto. Non ci resta che seguire appunto la programmazione. Vogliamo dare magari qualche canale social, sito in cui seguire? Sì, diamo il sito che è perasperafestival.org, dove si trovano tutti gli appuntamenti dal 19 al 25 settembre. Grazie mille. Grazie a te.